Capitolo quarto, il rispetto dell'autorità islamica e dell'unità dei musulmani. Molto importante questo, soprattutto al giorno d'oggi. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la vi in gloria: chi obbedisce a me, obbedisce ad Allah, e chi disobbedisce a me, disobbedisce ad Allah. Chi obbedisce a colui al quale ho conferito autorità, obbedisce a me, e chi disobbedisce a lui, disobbedisce a me. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il musulmano ha il dovere di obbedire all'autorità islamica, sia quando l'ordine che da essa ha ricevuto gli piaccia, sia che non gli piaccia, purché non gli venga ordinato di commettere una trasgressione alla legge di Allah, poiché in tal caso il suo dovere è quello di disobbedire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: chi disapprova qualcosa nel suo amir deve dar prova di pazienza, poiché non c'è musulmano che si allontani di una spanna dal suo amir che, se muore in questa condizione, muoia da musulmano. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: siate timorati, eseguite le vostre 5 adorazioni quotidiane. Digiunate il vostro mese, il mese di Ramadan, pagate la zakah sui vostri beni, obbedite all'autorità islamica, così facendo entrerete nel paradiso del vostro Signore. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: seguite la strada maestra con la comunità, poiché chi si separa da essa, dalla comunità, sarà separato da essa e mandato nel fuoco. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Allah non raccoglierà i seguaci di Muhammad intorno a un errore. La mano di Allah è sulla comunità e chi si separa da essa sarà separato nel fuoco. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: colui che si allontana anche di una sola spanna dalla comunità si scioglie dall'Islam. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: come il lupo è un predatore di pecore, così il diavolo è un predatore di uomini. Il lupo aggredisce la pecora che si estranea dal gregge, che va curiosando qua e là, che se ne sta isolata. Perciò guardatevi dalle strade solitarie e state uniti alla comunità e alla maggioranza dei buoni musulmani. Disse, che Allah lo benedica e lo in gloria: togliere la vita a un musulmano non è omicidio nei seguenti casi: quando ha sparso il sangue di un uomo violando l'interdizione di Allah, quando, essendo coniugato, ha avuto rapporti carnali extraconiugali, quando, dopo aver rinnegato l'Islam ed essersi allontanato dalla comunità, prende le armi contro Allah e contro il suo apostolo.